Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questo canto, un canto sacro ebraico, iniziamo l'incontro di oggi con Rav Giuseppe Laras, già rabbino capo della comunità di Milano. Buongiorno, dottor Laras. Buongiorno, buongiorno. Ecco, un canto liturgico, quello che abbiamo sentito? Sì, è un canto liturgico molto solenne, sia della liturgia quotidiana che della liturgia del sabato, e contiene una esaltazione del Dio unico che preesiste alla realtà e che sarà presente dopo che la realtà non ci sarà più. E quindi è un testo a cui l'ebraismo è molto legato. Diciamo il centro della religione ebraica. Di sì, molto caratteristico. Ecco, in questa prospettiva ascoltiamo oggi, incontriamo Rav Giuseppe Laras, anche perché oggi esce il primo volume di una collana di libri dedicati alle grandi religioni da parte del Sole 24 Ore, il primo volume dedicato al cattolicesimo. Ci sarà anche un volume dedicato all'ebraismo. Giuseppe Laras è studioso di filosofia medievale, professore universitario, scrittore di fama internazionale, ha scritto moltissimi libri, sia di storia della filosofia ebraica, sia di vita comune. Uno di questi libri si intitola, per esempio, Meglio in due che da soli. Di cosa parla? Parla dell'amore. E in questo testo esamino l'amore sotto vari profili. E naturalmente l'amore verso Dio, l'amore verso gli amici, l'amore verso la moglie, il marito, l'amore coniugale, l'amore mistico. E quindi è un excursus su tutti concetti di amore che si possono declinare. Quindi parte dall'amore sacro e arriva all'amore profano. Sì, diciamo così, perché l'amore, se è amore, non è mai profano. Non è mai profano. Ecco, è stato capo rabbino prima ad Ancona, poi a Livorno e a Milano, dove ha retto la cattedra per oltre 25 anni, docente di storia del pensiero ebraico e ora presidente dell'Assemblea dei Rabbini d'Italia, presidente del Tribunale Rabbinico dell'Alta Italia e così via. Come si diventa un rabbino? Studiando, per quanto mi è riguardato, studiando molto, e anche se io all'inizio non pensavo di fare il rabbino, studiavo perché mi piaceva studiare. Quindi sempre studiare, però religioni, teologia? Sì, tutte, diciamo, le materie dell'ebraismo, quindi il pensiero, la normativa, soprattutto la normativa, l'esegesi biblica, la storia. Ecco, e poi mi sono ritrovato a fare il rabbino. Ecco, lei ovviamente nasce da una famiglia ebrea, mi pare a Torino. Come... Sì, di una famiglia originaria di Livorno, perché è una famiglia sefardita la mia, che poi all'inizio del secolo si era trasferita a Torino. E già mio padre era nato a Torino e quindi anch'io sono nato a Torino. Quindi poi lei ha vissuto negli anni del dopoguerra, soprattutto le scuole. Ho vissuto gli anni della guerra, purtroppo, dove ho perso mia mamma e mia nonna, e anch'io ero stato preso e mi sono salvato miracolosamente, ma questa è un'altra storia. E poi ho vissuto successivamente sempre a Torino. È difficile essere ebrei in Italia? Ma direi, in base all'esperienza che io ho fatto, che è più difficile secondo me rispetto ad altri, ma però ogni esperienza di vita ha le sue difficoltà, quindi è difficile parlare nei confronti di altre esperienze di vita. Certo che la mia esperienza mi ha posto di fronte a situazioni difficili, crudeli, ma anche di fronte a grandi momenti di generosità e di disponibilità verso l'altro. E poi con l'esperienza del dialogo ebraico-cristiano veramente ho fatto un'esperienza specifica su questo argomento. Ecco, una cosa che ha contraddistinto un po' la sua esperienza da rabbino, in particolare a Milano, mi sembra, è stata questa apertura, questo dialogo molto aperto, in particolare con il cardinale Martini. Sì, ecco, con il cardinale Martini siamo entrati a Milano praticamente insieme nel gennaio del 1980. E qui praticamente in Alta Italia e ovviamente nel resto d'Italia il dialogo ebraico-cristiano era poco praticato. Martini ha aperto questa strada e da allora in Italia si è praticato il dialogo. Ecco, cosa vuol dire dialogo tra ebrei e cristiani? Perché sono certo. Due religioni diverse, per esempio l'ebraismo non ha il proselitismo come suo elemento, mentre il cattolicesimo ha l'ambizione di convertire le persone. Come ci si può incontrare? Ma ci si è incontrati perché il dialogo nasce dalla tragedia della Shoah. E a qualcuno è venuto in mente un'idea, direi proprio luminosa, importante, che bisognava cercare di riconoscersi, rifrequentarsi, riguardarsi negli occhi, constatando che siamo persone, che tra l'altro discendiamo da una matrice unica, sia in senso umano che in senso anche religioso. Abramo è padre di tutti i credenti. E che quindi bisognava dare un contributo alla lotta contro la violenza e contro l'antisemitismo. È così che nasce il dialogo. Quindi un dialogo costruttivo per ritrovare dei valori di fondo che sono comuni. Io ho sempre detto che il dialogo non deve essere un incontro teologico. Perché ognuno entra con la propria identità e esce con la propria identità, ma proprio in questa situazione deve sperimentare, fare sperimentare una capacità di stare insieme. Ma quindi alla base del dialogo c'è anche una conoscenza, una maggiore conoscenza reciproca. Ecco, ma non si deve temere che l'altra parte approfitti del dialogo per convertirci, perché questo è un sentimento molto diffuso da entrambe le parti. E questo sta a significare come sul dialogo gravi tutta un passato molto, molto drammatico, molto, molto serio. Ecco, però c'è appunto un fondamento comune, la ricerca del fondamento comune è certamente storico, sta certamente nei libri sacri, ma sta anche appunto nei valori. Quali sono questi valori che possono essere più condivisi? Ma guardi, intanto il valore della preghiera. È possibile pregare insieme tra ebrei e cristiani? È possibile in determinate situazioni, in determinati modi. La lettura, per esempio, di Salmi è una lettura che può diventare liturgica per tutte e due le parti. E poi un altro valore è quello della teshuvah, della capacità di fare penitenza. E penitenza cosa vuol dire? Decidere di cambiare vita perché abbiamo capito che quel modo di essere che noi praticavamo era sbagliato. E quindi è uno strumento di rigenerazione molto importante. E questo in una società che si sta molto secolarizzando, come si dice, appare una grossa sfida. Sì, e questo sta a significare anche che c'è un elemento di differenziazione rispetto del cattolicesimo, che noi dobbiamo cercare in noi stessi la capacità, il modo di rinascere, mentre invece per il cristianesimo c'è la soluzione, c'è il sacerdote che quindi semplifica molto le cose in questo. È più impegnativo, certo. Diciamo semplificando le cose, è più impegnativo certo. Essere ebreo che cristiano. E poi c'è l'idea messianica, cioè che domani sarà meglio di oggi. Ma questo accomuna le due realtà. Certo, certo. Domani è meglio di oggi e se io sento che domani sarà meglio di oggi, affronto molto meglio il dolore dell'oggi. Ma domani per i cristiani e domani... I cristiani attendono un ritorno, noi attendiamo una venuta, e comunque è sempre un venire che noi attendiamo. È sempre un venire, è sempre un fatto di apparire della divinità, di farsi... Di presenziare, farci conoscere una nuova realtà meno egoista, meno violenta, più aperta verso gli altri. Con questa speranza concludiamo la prima parte del nostro incontro con Giuseppe Laras. Lasciamo un attimo di spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Con questo brano sacro della liturgia ebraica riprendiamo il nostro incontro con Rav Giuseppe Laras, studioso di filosofia medievale, è stato rabbino capo per oltre 25 anni a Milano. Allora, Rav Laras, come giudica questa società italiana? Parlavamo prima di secolarizzazione, una società che si sta appunto secolarizzando, sempre allontanarsi dai valori un po' del trascendentali, possiamo così, che sono quelli che possono accomunare i cattolici e gli ebrei. Come giudica questo sì, processo? Io credo che questo problema sia comune praticamente a tutti i tempi, perché noi naturalmente cogliamo il presente, perché viviamo del presente, anche se possiamo conoscere storicamente o immaginarci il passato. Non c'è dubbio però che questo nostro tempo abbia una necessità in più per ritrovare il modo di collegarsi con la trascendenza. Questo non significa che noi dobbiamo respingere, diciamo, la fisicità, il corpo, perché l'ebraismo non ha mai avuto la paura della fisicità e del corpo. Quando, se noi leggiamo la prima pagina della Bibbia, la Genesi, e ogni momento della creazione è accompagnato dall'espressione "vide il Signore che era buono", quindi c'è un giudizio positivo sulla creazione, sul mondo fisico. Però ecco, il mondo fisico non è tutto, c'è una realtà che ci trascende e che va oltre questa realtà visibile. E se noi consideriamo, ci facciamo anche conquistare da questa realtà, avremo la possibilità di impostare meglio questa realtà che noi adoperiamo e che noi realizziamo. Ecco, ebrei e cattolici dovrebbero essere in fondo testimoni entrambi di una realtà superiore. Così dovrebbe essere, e in parte così è. Però bisogna, secondo me, che questo sguardo verso l'alto non sia tanto predicato, ma sia testimoniato. E questo è quello che oggi manca. C'è molta predicazione, si deve fare così, ma invece è molto più efficace dimostrare senza dirla una certa cosa. È la forma più difficile, anche se spesso non viene individuata come tale. E per cui c'è bisogno di insistere sulla testimonianza più che sul dire, cioè il fare più che sul dire, ma quindi questo è un fenomeno che è sempre esistito. E poi avere fiducia che il seme che si mette con la testimonianza. Sempre. Io dico sempre, citando un passo dei pensieri dei padri, un testo di etica molto antica: tu non sei tenuto a finire l'opera, ma per questo non devi esimerti dall'eseguirne una parte, perché normalmente una persona dice: se io non riesco a realizzare tutto, certo, io non mi metto neanche, perché voglio che sia poi ascritto a mio merito. Invece quello che tu puoi fare non verrà perduto, e in questo c'è anche una generosità nei confronti di chi verrà dopo di noi. Indubbiamente, in questa prospettiva, ecco, guardando un po' alla realtà anche concreta, lei è arrivato a Milano, diceva, nel 1980, 80. Ha fatto 25 anni di rabbino capo della comunità di Milano. Cos'è cambiato in questi 25 anni? Proprio direi della realtà di Milano, della realtà della città. Ma la vedo la vita più movimentata. più tesa. Prima la vedevo più lenta, e quando una realtà che è intorno a noi è più lenta, la si può gestire forse un tantino meglio. Colgo la velocizzazione. Che però diventa anche frenesia. Diventa, ecco, anche... e lì il rischio è che nella velocità noi perdiamo dei momenti particolari importanti. Però bisogna adattarsi anche ai tempi, forse. Ed essere sapienti. Ecco, adattarsi ai tempi ed essere sapienti, lei dice. Poi ci sono anche queste nuove tecnologie che ci circondano. Noi stiamo sfruttando la tecnologia come quella della radio, ma soprattutto i computer, internet, sì. Gli iPad, gli iPod, tutti questi strumenti possono essere utili. Ma certo che sono strumenti importanti ed utili, e hanno velocizzato molto il modo di essere. Una volta, quando si scriveva una lettera, si aspettava la risposta. Adesso, quando si fa l'email, praticamente non è finito che sia già arrivata la risposta. Ha velocizzato, e quindi questo può indurre a qualche sensazione di eccessiva velocità, però insomma questo è... Può portare anche a un'eccessiva superficialità, forse a un non distacco. Ti dà tempo questa velocizzazione, forse, di fare mente locale, di riflettere, di pensare, perché quando io scrivevo una lettera e poi la scrivevo, ci pensavo, poi aspettavo la risposta. Adesso, se ti scrivono una cosa, bisogna rispondere adesso, immediatamente. Cioè. Però questo forse è una banalità, ma questo dà anche il senso di questa eccessiva velocizzazione. Però noi non dobbiamo respingere i dati della modernità, del nostro tempo. Noi dobbiamo saperli gestire con sapienza. E questo ha cambiato un po' anche la sua vita quotidiana? Beh, sì, sicuramente sì, ma non me ne lamento, anche se qualche volta con i collaboratori dico ma qui non ce la facciamo più, è impossibile, però mi rendo conto. Ecco, cosa fa un gabbino durante il giorno? Ma intanto riceve delle persone e ascolta i loro problemi, poi presiede i momenti liturgici, poi alla scuola... anche fa lezioni e fa parte di varie organizzazioni interne della comunità che si occupano di cose specifiche, e presenza non solo alle funzioni liturgiche, anche ai funerali, ai momenti anche di gioia, ai matrimoni. Ecco, e quindi è un ministro di culto. Ho vissuto momenti molto importanti, interessanti della vita proprio attraverso l'esperienza che ho avuto come maestro. Io ho ascoltato, io dico sempre ai miei collaboratori, vorrei scrivere un libro di memorie. Poi non mi smetto, ma perché ho tantissimi ricordi. Forse meriterebbe tramandare l'esperienza. Ho delle esperienze bellissime e delle esperienze terribili. E quali incontri ricorda con maggiore? Abbiamo parlato del Cardinal Martini, per esempio. Quali incontri hanno segnato la sua esperienza in questi anni? Ma io ho avuto incontri con ogni genere di persone, sia all'interno dell'ebraismo che all'esterno dell'ebraismo. Ho incontrato situazioni tragiche, situazioni anche familiari, ho incontrato momenti di generosità, di felicità, di estrema tristezza, e è veramente... La mia personalità, secondo me, se n'è arricchita, perché ho capito come è fatta la vita. Perché quando uno studia, ti insegnano, quando si va come nelle comunità, si fa i rabbini, bisogna sapere. Però se tu non vivi la realtà quotidiana, non puoi capire. E questo, secondo me, ha segnato la mia vita, facendomi crescere da un punto di vista anche spirituale, religioso. Ecco, c'è nell'ambito appunto della comunità ebraica un fiorire di vocazioni, o c'è un problema di trovare? Ma oggi, come il problema in generale, non è che ci sia un crescere di vocazioni religiose nel senso di voler fare il rabbinato. Però ci sono molte vocazioni a studiare i fondamenti della religione per metterle a disposizione degli altri al di fuori delle cariche ufficiali, e questo da un punto di vista è una cosa positiva. Però, così come nel cattolicesimo, ci sono anche molti ebrei non osservanti che è difficile definire la non osservanza. Cosa vuol dire osservanza? Chi, per esempio, non prega il sabato, chi non segue tutte le prescrizioni della dieta kasher ebraica, sono elementi che possono individuare l'osservanza o non osservanza. È molto complesso. Però c'è tutto un insieme di gesti, di pensare, che creano questa posizione dell'ebreo. Comunque, quindi l'ebreo è anche chi ha la propria coscienza rivolta verso Dio. Noi abbiamo tutte queste forme qui, abbiamo tanti modi di essere ebrei. Naturalmente ci sono quelli che ti diranno: ma questi certi modi di essere ebrei non sono in realtà di modi. Ci sono altri che dicono: non è vero. Quindi, e anche da questo forse può nascere un dialogo anche all'interno. Sono cose molto difficili. Molto difficili. Beh, questo forse è bene conoscere anche questa realtà. Noi ringraziamo Rav Giuseppe Laras di essere stato qui con noi, di avere un po' aperto anche questa finestra su un mondo certamente presente nella realtà attuale. Ne approfitto per ricordare appunto i volumi del Sole 24 Ore, che da oggi sono in edicola ogni settimana. Il primo volume è dedicato al cattolicesimo, ma poi seguiranno altri volumi dedicati alle altre grandi religioni, tra cui appunto all'ebraismo. Grazie, Rav Laras, grazie di essere a stato voi con per noi. Questa bella conversazione. Grazie a Filippo Reggi in regia, da Dita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.